avec des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait le val de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tendu. Dov'è sa voix si fatale, son beau il vostro Giappone? Questa mattina vorrei parlare del Giappone. È l'argomento naturalmente più presente e più vivace su tutte le cronache, sia in televisione sia nei giornali, per la catastrofe immane che è accaduta in quel paese. Il nostro atteggiamento, banalmente, normalmente, quando accadono fenomeni atmosferici così rilevanti, così importanti, così grandi in paesi lontani, è quella di attenzione, di commozione, di partecipazione, nella migliore delle ipotesi, ma pensiamo sempre a qualcosa che ci sia accaduto lontano. Il Giappone, da un punto di vista geografico, è sì molto lontano a noi. Ma la mia percezione, o perlomeno la mia impressione, è che la tragedia giapponese sia un po' più nostra di quanto potrebbe esserlo stato tante altre equivalenti, anche se è difficile fare equivalenze nel campo delle tragedie, comunque episodi legati a grandi sconvolgimenti atmosferici. Un po' perché è esagerata, grande, immane, immensa, cosmica, l'asse terrestre spostato di 10 centimetri, è qualcosa che comunque riguarda tutti. Un po' perché, leggendo poi i giornali questa mattina, l'aspetto della furia atmosferica, la furia degli elementi, la furia la sottile e segreta potenza del mondo naturale si accompagna con quella che è stata la più grande paura che ha attanagliato gli esseri umani dal dopoguerra in poi, che è quella della catastrofe nucleare. Le forze della natura imbrigliate dall'uomo, usate dall'uomo per fini speculativi, per sua utilità, improvvisamente per qualche motivo si ribellano, quello fa paura. E l'elemento dello scatenamento, sia dell'ordine naturale, sia che dell'ordine del naturale tecnologicamente trattato, è molto proprio del Giappone. Il Giappone esce da una guerra in cui era stato bombardato con una bomba nucleare e gran parte dell'immaginario giapponese, che poi lentamente filtrato negli anni attraverso noi, è fortemente corroborato, stimolato o in alcuni tratti inquinato da questa paura del nucleare. Anche di questo parleremo, ma quello che vorrei questa mattina è che ognuno di voi, per quanto è possibile, per quanto ci riesca, per quanto possa attingere ad alcuni elementi, alcuni stimoli che lo circondano, che fanno parte della sua vita comune, del suo comune interagire con altri esseri umani. Noi spesso interagiamo grazie a tecnologia giapponese. Noi passiamo il nostro tempo libero molto a contatto con macchine e con supporti dell'immaginario che vengono dal Giappone. I nostri figli hanno intessuto il loro fantastico, la loro capacità di fantasticare moltissimo dall'immaginario che viene dal Giappone. Non molti se ne rendono conto, non tutti osservano, guardano, seguono quello che fanno i propri figli, ma vi assicuro che è esattamente così. Noi stessi siamo fortemente intrisi nello stile, nella maniera di porci, nell'estetica delle nostre case, nel taglio dei nostri abiti molte volte, nelle nostre consuetudini gastronomiche, molto colpiti, segnati, non voglio dire dipendenti con una brutta parola, ma in qualche maniera attenti osservatori di quella che è l'estetica giapponese, qualcosa di lontano, ineffabile, molto complicato, molto difficile da definire. Lo siamo ancora più noi di una particolarissima generazione che vive a metà tra quello che intuisce e individua come il filone serio, concreto, austero delle informazioni letterarie, poetiche, storico, documentale, caratteristiche della nostra epoca e quelle che sono le cosiddette fonti improprie, quelle in cui con grande, profondo e piacevolissimo senso del peccato abbiamo attinto sin dalla nostra adolescenza e oggi in età matura ci sentiamo fortemente sdoganati, possiamo anche quelle impugnarle e parlarne come se fossero reali fonti culturali della nostra epoca, della nostra generazione. Beh, io vi dirò questa mattina da cosa è sintetizzato per me il Giappone, per me personalmente. Mi piacerebbe che lo stesso sforzo lo facesse ognuno di voi, cercando di dare, se possibile, un modestissimo e probabilmente non concretamente percepibile contributo o senso di presenza, testimonianza, esistenza e riconoscenza del Giappone rispetto alla tragedia che l'ha colpito in questi giorni, raccontando, ricordando e accennando a qual è il proprio Giappone individuale. Io vi dico il mio. Salve. Arigatou. Benvenuta. Tu, inglese? Beh, quasi. Americana. Americana. Benvenuta, americana. Domo? Io parlo molto bene tua lingua. Tu hai detto domo? Parli giapponese? No, no. Solo qualche parola che ho imparato l'altro ieri. Posso sedermi qui? Oh, certo, certo, certo. Prego, siedi. Quali altre parole hai imparato? Solo un momento. Ai, okekusan! Agaricho, tanomio, shoide! Ima, daesuki na hirumero miten da yo. Oh, merda. Hirumero time. Iikara, isoge! Muoviti! Sta zitto! Alza le chiappe e vieni qui! Oh, mi scuso. Non vogliatemene. Questo è il microcosmo dell'immaginario che mi ha contaminato e più mi racconta il Giappone di questi giorni. Siamo in Kill Bill volume 1. La sposa, Uma Thurman, inizia a lucidamente pensare alla sua vendetta. Ha bisogno di strumenti formidabili per vendicarsi contro le sue formidabili ex colleghe dell'agenzia di killer gestita appunto da Bill. Va appunto dall'uomo di Okinawa, che è un semplice oste, trattore, cuoco, che è un piccolo e fumoso e anche molto poco di lusso locale in cui si vende cibo. C'è un bancone di legno dietro cui sta questo signore giapponese con una fascia fra i capelli, con una giacca bianca. Lo immaginiamo un cuoco, un preparatore di sushi, di zuppe, e infatti accoglie molto bene la sposa, che è una guerriera e conosce il giapponese, ma finge all'inizio di essere semplicemente una turista. Una turista che va in un locale giapponese per mangiare cibo giapponese, come fanno oggi molte signore, molte impiegate, molte nostre colleghe nella pausa pranzo del loro ufficio. Vanno in un locale e si mangia pesce crudo alla moda giapponese. Poi magari a servirlo sono dei cinesi travestiti da giapponesi, ma anche questo fa parte della fantastica opera di mistificazione o di sovrapposizione che ci viene dal Giappone. Vi ripeto, questo signore è dietro un bancone e alle sue spalle ci sono due porte. Una è quella della cucina, dove sta il suo inserviente, che lui insulta, è un rozzo inserviente di bottega, perde tempo a guardare il karaoke in televisione, non porta il sake caldo alla avventrice. Ci sono tutti gli elementi, noi conosciamo anche noi la sera, quando andiamo a farci un giapponese chiediamo sake caldo, ci danno quella bordaglia calda che fingiamo di apprezzare perché è un sapore lontano, esotico, che ci ricorda qualcosa di lontano. Inizio a raccontarvi, vi sto raccontando il mio Giappone, raccontatemi il vostro. 800240024. Cosa bevi? Oh, sì, vorrei del sake caldo, grazie. Prima volta in Giappone? Uh-huh. Oh, che cosa porta te in Okinawa? Devo incontrare un uomo. Oh, sì? Hai un amico che vive in Okinawa? Non proprio. Non è amico? Non l'ho mai visto. Mai? Chi è lui? Posso chiedere? Hattori Hanzo. Hattori Hanzo ni ittai nan no yō desu ka? Nihon to ka itsu yō de? 一体日本刀を何に使うんですか 切りたいネズミがいるから devono essere parassiti molto grossi se ti serve l'acciaio di Hattori Hanzo è buffo a te piacciono spade di samurai a me piace baseball c'è tutto il Giappone che io penso, vedo, immagino illudo me stesso di conoscere, ma come Salgari non conosceva la Malesia, non conosceva il Borno, eppure lo raccontava, io racconto questa mattina il mio Giappone. In realtà l'oste, il venditore di sushi, era Hattori Hanzo, nella rilettura di Tarantino, il più grande fabbricatore di spade del Giappone, che faceva delle spade fantastiche, che a un certo punto della sua vita smette di costruire spade e si mette a fare l'oste, a fare il trattore, come se nulla fosse. È sufficiente che rientri una persona che ha bisogno del suo acciaio e delle due porte alle sue spalle prende quella alla sua destra, sale la scala, apre la cantina e c'hanno tutte le sue spade, fantastiche, bellissime, allineate, ognuna con la sua anima, ognuna con la sua ragione di essere. E improvvisamente si leva il grembiule, chiama il suo stupido inserviente, lo sciocco ragazzo di bottega, che in realtà è l'officiante del sacro rituale del creare dall'acciaio una spada unica e personalizzata, e fa la spada per la sposa, la spada con la quale lei poi ucciderà centinaia di nemici, perché è una spada fantastica. Hattori Hanzo è realmente esistito, era un guerriero, un combattente ninja della fine del Cinquecento, quindi personaggio con una sua realtà storica. A me affascina questa doppia valenza, questa capacità di essere l'una e l'altra cosa, con grande dignità, con il sorriso sulle labbra, non per niente mortificato. Quanto noi saremmo mortificati di svolgere una funzione che riteniamo più utile o subordinata rispetto a quella principale per cui noi abbiamo l'eccellenza. Hattori Hanzo, il costruttore delle migliori spade, dei migliori acciai per uccidere, può tranquillamente servire il sushi e il sake caldo ai suoi avventori e allo stesso tempo essere l'una e l'altra cosa. Questo è il mio Giappone. Renzo, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, complimenti d'uomo per la sua trasmissione. Qual è il suo Giappone? Il mio Giappone sono due Giapponi in realtà. Uno si perde nei ricordi di ragazzino, quando finalmente vennero alla luce gli orologi facili da leggere, i famosi Casio, ricorderà? Certo, i numeroni digitali. I numeroni bellissimi, tutti i bambini riuscivano a leggere, capivano che ore erano, e loro erano precise, non erano, no, avevano anche i minuti precisi, non c'erano più potremmo dire sono le 23:56, no? 52, esatto, bravo, esatto. Quella è una cosa che, poi ricordo che mio padre me ne comprò uno con la calcolatrice inclusa, una cosa incredibile per allora, sono del 74, quindi può immaginare. Quindi lei oggi si sente particolarmente emotivamente vicino a quello che sta accadendo nel Giappone e sente questa sua tragedia parte anche come la sua veramente, non retoricamente, come spesso diciamo, quanto ci commuoviamo per i bambini che muoiono di fame, per i terremoti, per le alluvioni, ma questa volta lo siamo sinceramente e un po' di più. Perché? Perché, come sta dicendo lei, il Giappone è dentro di noi, in maniera subliminale, inconsapevole, lenta, come qualcosa che pigliamo goccia a goccia, ma c'è realmente, concretamente. Oltre all'orologio c'è qualcos'altro? Ma allora, rimanendo all'età dell'infanzia, della fanciullezza, come dice lei, ovviamente i cartoni animati, che allora erano totale appannaggio, quasi totale appannaggio, perlomeno un certo tipo di cartoni animati erano quasi totale appannaggio del Giappone. Oggi non è più così, anche se si rifanno sempre a quella cultura, però sa meglio di me che oggi i produttori sono anche italiani, anche importanti, insomma, poi uno è... Sì, allora, diciamo, c'era la fantastica attrattiva del fatto che fossero proibiti. Vengono considerati quei brutti cartoni animati giapponesi, fatti con i computer, che fanno male, non li guardate, guardate i vecchi, bei cartoni animati di Topolino. E in realtà, no, era una cultura che trapelava verso di noi, anche molto importante. E su questo magari ci dice qualcosa di più un'amica che terremo accanto a noi fino alla fine, che... Zoe Lacchei. Zoe, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, buongiorno a tutti quanti. Zoe Lacchei è un'artista, una disegnatrice, una studiosa della cultura visiva giapponese, l'abbiamo già avuta come ospite, soprattutto è una fantastica reinterprete dell'estetica giapponese, dell'erotismo giapponese in delle, dei fantastici quadri che lei dipinge e che vedo spesso anche dipinti sulla pelle delle persone, che poi diventano tatuaggi. Ecco, Zoe, è forse inutile che chieda a te qual è il tuo Giappone, vediamo se riesci però a sintetizzarmelo. Ma il mio Giappone inevitabilmente è quello legato a tutto ciò che è la loro cultura visiva, però devo dire che in questo caso qui il Giappone per me, con tutta la sua cultura e soprattutto con l'animazione giapponese, è stato un genitore migliore di quelli che avevo in casa, perché da cartoni animati, da film come i film di Miyazaki, ho tratto tutta una serie di valori che poi hanno reso me l'adulta che sono oggi. Quindi devo dire che oltretutto c'è una commozione incredibile per me dietro tutto quello che sta accadendo, perché è come se riuscissi a vedere i miei eroi fatti di carne, perché il modo eroico in cui stanno affrontando tutto questo è il modo eroico in cui molti di noi sono stati proprio tirati su da anime giapponesi. Ecco, fammi un esempio, scusa se ti forzo un po' la mano, visto che hai detto una cosa molto suggestiva. Tu rivedi i tuoi eroi in quelle figurine che noi vediamo nei telegiornali, che stanno facendo spendere fiumi di inchiostro ai nostri colleghi. Rimaniamo tutti stupiti dall'impassibilità o dalla dignità o dall'ordine in cui i giapponesi si dispongono nell'immane tragedia. Noi che siamo abituati a vedere stracci che volano, bambini sollevati nudi sulla folla, madri disperate, microfoni che chiedono cosa ne pensa, quali sono le sue impressioni. Io ho visto per il terremoto dell'Aquila, che è stato, mi sembra, 30.000 volte inferiore a quello del Giappone, senza togliere nulla alla tragedia, giornaliste che bussano di notte alle auto dove dormivano le persone, aprendo il finestrino alla vecchia dentro stravaccata: signora, cosa si prova a dormire in macchina? Ma il punto è che per i giapponesi, anche per un discorso legato a quella che è la loro religione, completamente diversa dalla nostra, ricordiamo che i giapponesi sono per la maggior parte buddisti e shintoisti, il dolore è una cosa privata e quindi non va esposta come magari viene esposta anche in modo brutale da noi. Per loro il riuscire a far vincere lo shin, cioè lo spirito personale, anche in alcuni casi, verso situazioni così, così drammatiche, è la cosa più importante. Io non so, in queste ore in cui io non mi riesco a staccare dal televisore, io ho visto rarissime scene di disperazione, ma anche un grande contegno. E ripeto, questo è perché è insito proprio nella loro cultura, nella loro religione. Sentiamo un attimo Paolo. Paolo, buongiorno. Buongiorno. Paolo. Sì, pronto, buongiorno. Io sì, mi sono recato una decina di volte in Giappone per motivi di lavoro, e la cosa che mi ha più impressionato è questa dicotomia profonda che esiste nel tipo, nell'atteggiamento delle persone nella vita privata rispetto a quello che magari è la vita di tutti i giorni nell'ambito lavorativo o pubblico, diciamo. È una cosa che mi ha sempre impressionato, perché per la quale ho provato sempre tanto rispetto, perché esprimeva una forza, un'energia interiore delle persone forse superiore alla nostra. E vorrei dire che la violenza che c'è stata nella Seconda Guerra Mondiale, sappiamo tutti a cosa mi riferisco, sia stata quello proprio di avere esposto questo paese a qualcosa di così enormemente pubblico, quando invece il dolore e la sofferenza sono tenuti in una maniera e considerati in maniera profondamente diversa. Io dico il mio punto di vista, poi sa, le valutazioni meritano approfondimenti ben più seri e meno superficiali. Il Giappone è stato usato come territorio test per provare e sperimentare le armi potenti che poteva avere a quel punto a disposizione l'essere umano, soprattutto nella seconda bomba, in quella di Nagasaki. È stata un puro esperimento, non c'era assolutamente nessun bisogno di mandarla, e anche sulla prima ho vari dubbi. Quindi probabilmente il fatto che sia dovuto ritirarsi fuori da questa idea di essere stato un grande campo di test umano per la sperimentazione dell'arma atomica, probabilmente abbastanza messo alla prova questo senso di sopportazione, questa sorta, almeno dal punto di vista occidentale, di fatalismo che difficilmente non riusciamo a capire se non entriamo profondamente in una visione della vita che è molto distante, antitetica dalla nostra. Grazie Paolo, ringrazio gli ascoltatori. 800 24 00 24, riprendiamo tra un istante dopo le informazioni dalla borsa. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Eh? Come hai detto che ti chiami? Kobayashi Daigo. Fagli i biglietti da visita. Agli ordini. Ma aspetti un attimo. Ecco, non abbiamo ancora parlato dello stipendio. Ah, giusto. 500.000. È poco? È tanto, ma perché la paga è così alta? E posso anche darteli in anticipo e in contanti. Sì, ma non mi ha detto che tipo di lavoro dovrei fare. Potresti fare il mio assistente, tanto per cominciare. Quindi in pratica cosa? Il tanato esteta. Tanato esteta? Preparare i corpi e adagiarli nella cassa. Quando dice i corpi, intende i cadaveri? Sai che le tue domande sono interessanti. Insomma, siccome l'annuncio di lavoro parlava di assistente per viaggi, ecco, credevo si trattasse di 800 24 00 24. Ed un altro assaggio del mio Giappone, di quello che per me è il Giappone, per me Salgari romano, che non ho mai visto il Borneo, quindi non ho mai visto il Giappone, lo vedo, lo medio, alimenta il mio immaginario attraverso cosa? Attraverso visioni, attraverso film, attraverso segnali che vedo per strada, attraverso negozi, attraverso cibo, attraverso modi di vestire, attraverso discorsi dei miei figli, attraverso i giochi dei miei figli, attraverso le apparecchiature che ho per le mani. Departures è la storia di Daigo Kubayashi, che è un violoncellista. A un certo punto la sua orchestra chiude, fallisce, rimane senza lavoro, deve anche vendersi il preziosissimo violoncello che aveva acquistato, quindi è costretto a suonare con il suo violoncellino di quando era bambino, poco più che un giocattolo, per la necessità di dover sopravvivere, quindi mantenere lui e la moglie. A un certo punto accetta di fare il tanato esteta, cioè entra esattamente l'opposto rispetto al maestro costruttore di spade, entra a far parte di una sorta di attività quasi sacrale che fa parte di tradizione antichissima, la preparazione del corpo perché la famiglia riunita possa dare l'ultimo saluto. La preparazione, dir poco, è il donare artificialmente una sorta di nuova giovinezza, di freschezza a questa salma, di adagiarla, di prepararla, di curarla, di lavarla, insomma di dedicare le amorose cure che si hanno per un bambino al corpo di un essere morto, appunto, a un cadavere. E l'artista, il violoncellista, mette da parte il violoncello, come appunto il maestro costruttore di spada mette da parte le sue spade per prendere il coltello e fabbricare il sushi, e prende in mano il pennello per addobbare i morti. E questo diventa il suo lavoro, si realizza perfettamente, non si sente per niente inferiore, ha solo qualche problema nel raccontarlo alla moglie, però alla fine diventa una sorta di fatale destino, la maniera migliore per ritrovare un contatto con il padre morto, con il quale non aveva più nessun contatto, non riusciva da vivo a avere un rapporto con quel padre, riesce a averlo avendo finalmente appreso l'arte per fargli l'ultimo regalo di quando lo trova morto. Abbiamo adesso al telefono da Tokyo Flavio Parisi. Flavio Parisi, buongiorno. Buongiorno, buonasera per qui. Buonasera per te. Dunque, ricordo, Flavio Parisi è un insegnante di italiano e di storia all'Opera Lirica Italiana di Tokyo, è un giornalista, appunta le sue riflessioni quotidiane e ce le trasmette attraverso il suo blog Pesce Riso. Leggo questa mattina, proprio sulla pagina del tuo blog, qui non scrivete commenti polemici, se no non ne usciamo più. Cosa sta accadendo? Ma beh, quello era un intervento perché mi sembrava che la discussione in Italia avesse preso un po' una piega che esulava dai fatti che ci sono qui in Giappone, cioè era una specie di pretesto per degli scontri per bande, questa è stata la mia impressione. Però guarda che è molto importante quello, tu sei un italiano che porta la nostra cultura in Giappone e sappiamo quanto ne siano incuriositi, assetati e quanto volentieri comunque ne facciano parte. Stai a stretto contatto adesso epidermico con quello che è il cuore della tragedia di cui tutti stiamo parlando, allo stesso tempo attraverso il blog hai un secondo feedback delle reazioni degli italiani. Tutto questo messo insieme, in cosa potresti sintetizzarlo? Ma direi forse in una specie di difficoltà a comunicare, che in realtà è una difficoltà che spesso è più costruita da preconcetti che reale, nel senso che la vita che sto vivendo qui e che stanno vivendo tutti i giapponesi intorno a me è molto semplice. Purtroppo non è una vita bella, ma è basata su dei principi molto, molto razionali e molto umanistici, secondo me, perché tutti sopportano il dolore, la paura, le preoccupazioni, cercando di arrecarne meno possibile a quelli attorno a sé. Quindi nessuno si demoralizza, tutti cercano di dimostrare la propria faccia migliore. Ecco, per te è una scoperta, te conosci sicuramente il Giappone molto meglio di noi, perché hai un contatto non soltanto mediato come l'abbiamo noi attraverso la letteratura, le forme espressive che ci hanno formato. Ecco, trovi che sia una caratteristica peculiare di quel popolo proprio non cercare l'elaborazione del dolore attraverso la diffusione del dolore? Noi sappiamo che più urliamo, più strilliamo, più chiamiamo persone a convegno ad assistere al nostro dolore. Noi siamo il popolo che ancora ha come tradizione popolare le prefiche in molte nostre realtà regionali, sono ancora persone prezzolate per piangere funerali. Siamo esattamente il contrario. Ecco, ci spieghi un pochino invece questa austerità di fronte al dolore dei giapponesi che tanto stupisce oggi i nostri osservatori. Sì, penso che si possa tradurre con una semplice considerazione. Nessun giapponese pensa di essere l'unico sulla terra o l'unico nel mondo in cui vive. Cioè, qualsiasi azione che uno compie ha provoca una reazione in quell'intorno. Quindi prima di agire come, diciamo, nel modo che l'istinto suggerirebbe, cercano di capire che cosa provocherebbe questo nelle persone che si hanno a cuore, o anche semplicemente nelle persone vicine, perché c'è un senso di responsabilità. Secondo me è una cosa molto, molto umana, e tutti sono disperati, lo si vede nelle facce, tutti si riconoscono nella disperazione degli altri. E questo basta per loro. Tutto il resto, quello che si fa, è semplicemente aiutarsi, come ad esempio utilizzare meno energia elettrica perché ci sono le zone colpite, o cercare di mangiare meno, o insomma accontentarsi di cose che normalmente non si sarebbero mai pensate di mangiare. Ecco, questo è, diciamo, un atteggiamento che viene naturale, spontaneo, come se fosse stato un training generazionale degli ultimi decenni. Sembra che tutti sappiano già esattamente quello che debbono fare, cosa che per noi sembra totalmente impensabile. Ho visto già, non so, i filmati nelle scuole, i bambini che subito immediatamente si infilano sotto il banco, sono perfettamente addestrati in ogni operazione, anche a non lamentarsi, anche a non infastidire gli altri che stanno facendo l'operazione di soccorso. È vero, ma questo succede, diciamo, le operazioni meccaniche di salvataggio funzionano più sui bambini perché sono più freschi per questi training. Per quello che riguarda gli adulti, vedo che veramente la linea guida è nient'altro che il buon senso, cioè capire quello che è opportuno fare, seguire quello che bene o male si vede in giro. Ad esempio leggevo, insomma, dei commenti di persone che dicevano: abbassiamo tutti di più l'energia elettrica su Twitter. E quindi è un pensare di fare magari meno per sé, senza voler fare qualcosa per gli altri direttamente, perché non essendo esperti potrebbe anche creare delle conseguenze negative, no? Ecco, Flavio Parisi, un'ultima cosa. Sì. Quello che ci sorprende in questo momento è anche l'atteggiamento nei confronti del blackout tecnologico. Il Giappone lo vediamo come un paese tecnologicamente avanzatissimo, decenni avanti a noi, e infatti produce anche il nostro immaginario tecnologico. In questo momento in cui la tecnologia deve tacere, in cui c'è il buio elettronico e anche delle comunicazioni telematiche spesso, come si comporta? Ritrova la sua anima profonda e arcaica al giapponese e vive lo stesso? Ma direi che ritrova l'anima pratica che vive ogni giorno. Cioè, quando c'è stato il terremoto e i treni si sono fermati, tutti sono tornati a casa a piedi per 10-20 chilometri, chiedendo le informazioni alla polizia e senza cacciare un singolo lamento. Nessuno ha sorpassato quello che gli stava davanti nella fila chilometrica per prendere l'autobus, e semplicemente Ma è un atteggiamento che è naturale, perché evidentemente sono, pur essendo molto abituati al lusso tecnologico in questo caso, però sanno benissimo che è un portato della tecnologia e non è un dato per scontato, secondo me. Ti ringrazio da Tokyo, Flavio Parisi, buon lavoro. Sentiamo. Grazie. Fabio, solo in conclusione, prima di dare la linea all'informazione del traffico. Flavio, sposato, una donna giapponese. Fabio, buongiorno. Sì, buongiorno. Sì, diciamo ormai da 15 anni ci siamo conosciuti in Francia, poi siamo tornati in Italia. Ho anche fatto un po' di anni fa una rivista di promozione della cultura italiana in Giappone che si chiamava Buongiorno, che è durato una decina d'anni. Quello che volevo dire è quello che colpisce in Giappone nei miei numerosi viaggi e soggiorni in Giappone è il mare. La presenza, l'Oceano Pacifico è impressionante è proprio per il suo nome, per la sua calma. Impressionante, ma incute sempre un certo timore. Ci sono dei bellissimi tramonti sulle coste giapponesi, però guardando questo mare che ogni tanto si agita, non per fortuna sempre per gli tsunami, si ha veramente l'impressione di qualcosa, che il pericolo possa venire dal mare, e lo si vede nelle città giapponesi, queste costruzioni, queste immense barriere che sono costruite per tentare di evitare appunto la violenza degli tsunami. Bisogna ricordare che a Sendai c'è stato uno tsunami 120 anni fa, ho visto l'altro giorno alla televisione giapponese le immagini in bianco e nero della devastazione terrificante. Ecco, io direi che la precarietà della vita dei giapponesi e anche nel loro modo di vivere sempre con allegria. Le città giapponesi, non solo Tokyo vorrei ricordare, ma tutte le città giapponesi, anche le più piccole, hanno una vita notturna straordinaria, tutta la notte ci sono ristoranti aperti, posti dove ci si trova eccetera. Quello che ha colpito è forse questo fatto che lo tsunami se lo erano forse dimenticati. A Sendai c'erano delle murali alte 14 metri, quest'onda era superiore, molto superiore anche alle barriere che avevano costruito. Grazie Fabio, saluti e auguri a te e alla tua moglie giapponese, ci sentiamo tra un istante dopo le informazioni dal traffico. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Col buio pesto non si vede un bel niente. Appena una tempesta così e se ne va via la luce. Per questo dicevo di non volermi fermare qui per la notte. Vedi di non farti portare via dal vento! Sali da questa parte! Il mare si è gonfiato! Ma le navi non è che affonderanno? Le navi reggono meglio alle tempeste uscendo al largo. Anche Koichi avrà sicuramente fatto così. Sono dei pesci, Risa, ci sono dei pesci! 800240024, sto continuando a descrivere il mio Giappone, gli ascoltatori stanno descrivendo il loro, questo paese così lontano ma così carnalmente vicino a ogni nostra esperienza emotiva, o almeno a gran parte delle nostre esperienze emotive. Quello che avete sentito è proprio lo tsunami descritto nell'ultimo film del grande maestro d'animazione Hayao Miyazaki, che inconsapevolmente molti avete conosciuto attraverso quei cartoni animati che erano considerati di serie B, che guardavate magari da ragazzo. È una storia bellissima, Pony è una pesciolina, una piccola bambina pesce che diventa una bambina raccolta da un ragazzino umano che si prende cura di lei, ma a un certo punto anche questa pesciolina, essere figlia della grande dea del mare, ha anche un padre un umano che come sempre accade in ogni mitologia, gli umani hanno connubi con gli esseri divini, la rivuole, e per rivolerla suscita l'ira del mare. A un certo punto c'è la piccola cittadina dove vive questo bambino che ha preso la bambina pesciolina, sconquassata dallo tsunami. Che lo tsunami, in realtà, dentro le onde sono dei grandi pescioni, dei pesci giganti che lo stregone cattivo del mare butta contro la popolazione degli umani perché la odia. Comunque, ecco, in questo rapporto viscerale, anche terrificante, con il mare di cui ci parlava l'ascoltatore, è un'altra delle anime del Giappone di cui noi stiamo parlando. Mauro, buongiorno. L'ascoltatore Mauro ci aveva chiamato poco fa, probabilmente ispirato a qualcosa che avevamo detto. Sì, buongiorno. A me ha colpito molto The Patchwork, perché una mia insegnante mi diceva sempre che la civiltà di un popolo la si misura anche dalla cura che hanno dei defunti. Mi raccontava quando mi parlava della storia. E c'è una scena che ha raffigurato proprio il concetto che ho dei giapponesi. Purtroppo non sono mai stato in Giappone. Ed è una scena in cui loro due si presentano in ritardo da un cliente. Un ritardo di pochi minuti, che da noi sarebbe... Accade una tragedia, sì. E poi loro lavorano e alla fine lui li insegue e dice loro: avete reso mia moglie più bella ancora di quando era giovane. Credo che sia una sensibilità in questa sia il prima che il dopo, cioè la precisione che io immagino abbiano i giapponesi, ma anche la loro delicatezza. E me la porto dentro questa frase e mi ha permesso di costruirmi un'immagine di un popolo che purtroppo non ho mai visitato nel loro paese. Grazie Mauro. Invece adesso sentiamo un personaggio che il Giappone lo conosce bene, tanto da aver costruito profondamente, intimamente e anche spiritualmente un pezzo di Giappone nel cuore dell'Emilia. Fausto Taiten-Guareschi, buongiorno. Buongiorno. Fausto Taiten-Guareschi è un signore che a metà degli anni Ottanta ha fondato un monastero zen dalle parti di Fidenza, infatti si chiama Fudenji, che penso che sia la giapponizzazione di Fidenza. È un luogo riconosciuto dalle massime autorità religiose giapponesi come un monastero zen a tutti gli effetti. Ecco Fausto, chiedere a te qual è il tuo rapporto col Giappone, anche qua mi sembra non basterebbe tutto il tempo di una trasmissione intera. Ma tu esattamente si può dire che in quel pezzettino di Emilia esiste profondamente, spiritualmente proprio il Giappone? Sì, possiamo dire anche questo, ma la nostra terra, io oserei formulare uno slogan: così vicini, così lontani. Cioè il popolo italiano ha un'ammirazione, dagli interventi precedenti precisi e alle mie orecchie anche commoventi, si nota effettivamente come l'italiano sia sedotto, sia affascinato da questa cultura. Lo dimostrano per esempio i vari religiosi cristiani che si sono innamorati della spiritualità, della sensibilità giapponese e non riescono più a ritornare a casa. Purtuttavia rimangono cristiani a tutti gli effetti. Ecco, allora io qui in Emilia, per quanto fosse anomala come esperienza, ho effettivamente trovato un'intimità con la mia terra che i giapponesi chiamano l'intimità col passato, la segretezza o l'intimità coi padri, che sentono sempre loro vicina. Ecco, questo non ci è sconosciuto anche nella nostra terra, così anche martoriata da grandi terremoti, perché anche l'Italia, che è la superficie, è quella del Giappone dopo tutto, è un paese guardato con molto interesse dai giapponesi che ha molte caratteristiche simili, vulcani, terremoti e così, e anche la varietà dei paesaggi, diciamo. Ecco, io non ho fatto un'operazione particolarmente strana, ritengo, e che si raccordava però con una sensibilità che trovavo proprio anche dalla mia gente. Infatti io ho visto con i miei occhi Taiten-Guareschi, persona che ha fatto tutti i lavori, tra cui anche il falegname, con le sue mani prendere tronchi di legno, sgozzarli e costruire il suo tempio e le sue case in perfetto stile giapponese, in perfetta terra emiliana, con le mani di un lavoratore emiliano. Grazie Taiten-Guareschi, grazie Zoe Lacchei, grazie a tutti gli ascoltatori che hanno chiamato. Oggi abbiamo ricordato, o perlomeno abbiamo revocato, il Giappone che è dentro di noi. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.